Buonasera a tutti, benvenuti in questo bel pomeriggio. Presentiamo il libro di Pier Giorgio Adiani, che è qui con me, e che è professore ordinario di economia politica e dello sviluppo presso l'Università di Bologna, dove insegna economia dello sviluppo ed economia dello sviluppo internazionale nei corsi di laurea magistrale. Il libro si chiama Sviluppo al capolinea, non ha nessun punto interrogativo, e quindi io suppongo che sia un epitaffio nei confronti del nostro sistema economico. Cioè, è un modo per dirci che in qualche modo stiamo terminando. Però, devo dire, non è proprio così, perché questo libro, soprattutto nella sua parte finale, svela invece un côté molto interessante, che è un côté invece propositivo di come cambiare alcuni aspetti del nostro sistema economico. Io l'ho trovato un libro molto bello, perché è un testo sviluppato, un testo che propone al suo interno molti dati e in qualche modo ci aiuta quindi, grazie al fatto di fare un'analisi molto sistematica, a capire in effetti dove si sta dirigendo la nostra economia, ma soprattutto quali sono le radici dei problemi dell'economia italiana. Questo libro parte da una disamina iniziale che va a sfatare tutti i miti del governo Meloni, quindi del post pandemia, dove chiaramente la retorica è quella di un paese che tutto sommato resiste, avanza e si sta proponendo bene sullo scenario nazionale e internazionale, che ha fatto crollare la disoccupazione e che quindi compete bene, no? In realtà Pier Giorgio invece ci propone un'analisi alternativa molto chiara, quella appunto di sfatare ovviamente questa retorica. E quindi vorrei cominciare da te, proprio da questa analisi, da questi dati e da come giustamente hai guardato il post pandemia in una chiave comparativa che ci permette oggi di capire insomma a che punto siamo. Sì, grazie. Allora, grazie a voi di Meltemi per questo invito in questo luogo insolito, almeno per me. Si sente? Ok. Ma questo però cade. Perché bisogna stacchinati. Ce lo devo tenere in mano. No, se lo vuoi tenere in mano, se no, se lo tieni così, basta. Ma basta? Sì, sì, sì. Ah, ok. Sì, no, allora, la prima cosa, la risposta alla tua domanda è che è stato uno dei leitmotiv, una delle prime cose a cui ho pensato, di mettere in discussione questa idea del paese che ce la fa, comunque. L'Italia è un paese che ce la fa, quindi in fondo non dobbiamo preoccuparci tanto, e questi dati recenti dimostrerebbero che questo è un paese che comunque ce la fa. Appunto, abbiamo passato la pandemia, dove peraltro io adesso non sono un fanatico del PIL, ma come molti economisti, però come dire, prendendo a riferimento questo indicatore che è il più utilizzato, l'Italia è stata durante la pandemia uno dei paesi che ha avuto il crollo più evidente, più profondo. E adesso, siccome noi siamo caduti molto, un aumento naturalmente, siccome li si misura in percentuale, siamo anche cresciuti molto, solo perché siamo tornati a un livello precedente. Ci abbiamo messo poi 3 anni a tornare ai livelli del 2019. Come PIL, ma comunque sono i dati che sono usciti anche 2 giorni fa, la produzione industriale per il 27esimo mese consecutivo è calata rispetto all'anno precedente, quando qui c'era il dato era il 24esimo, siamo arrivati al 27esimo, il record è stato quello di 29 mesi, quindi tra un po' ci arriviamo. Quindi, vabbè, quello è un altro indicatore. Si può sempre trovare un indicatore buono. E infatti una delle cose su cui sta insistendo il governo è che, vabbè, il PIL va così così, perché siamo sempre sullo 0, e poi nemmeno l'anno scorso siamo stati proprio quasi vicino a zero, ma comunque però cresce l'occupazione, dice il governo. Sì, è vero, per la prima volta abbiamo superato i 24 milioni di occupati ufficialmente registrati dall'Istat. È la prima volta che succede. Però se ci pensate, nel 2002, quindi 23 anni fa, eravamo 22 milioni, non è che siamo cresciuti chissà di occupati. E poi, se guardiamo a questi occupati, i maschi sono sempre quelli, anzi sono diminuiti i maschi rispetto al 2002, i maschi sono diminuiti, le femmine, le donne, insomma, sono aumentate. I dati Istat non sono binari, non c'è terzo genere. No, le donne sono aumentate, sono il vero elemento di aumento rispetto al passato. Quindi di questi 24 milioni, più di 13, i maschi sono 13 milioni, scusa, 13 milioni e mezzo, 13 milioni, e le donne sono poco più di 10 milioni. Ecco, per la prima volta le donne negli ultimi anni hanno superato i 10 milioni. E quindi questo è uno degli altri aspetti. L'occupazione è cresciuta, sì, ma quale occupazione è cresciuta? Sì, è vero, sono cresciuti anche i lavoratori a tempo indeterminato, no. Ma ora, una delle ragioni del declino italiano è che io analizzo ampiamente nel libro. Il libro ha sostanzialmente è suddiviso in tre parti, le tre grandi crisi che deve affrontare l'Italia. Una riguarda il discorso sulla produttività, lavoro, salari. È vero, c'è stata una frammentazione del mercato del lavoro, frammentazione dei ruoli contrattuali, delle occupazioni. E un aspetto di questa frammentazione è stata la diminuzione dei lavoratori a tempo indeterminato. Una volta i lavoratori erano sostanzialmente solo a tempo indeterminato, se no erano i lavoratori stagionali. Negli ultimi 30 anni, appunto, c'è stata l'introduzione di varie figure: lavoro a tempo determinato e indeterminato, tempo parziale, tempo pieno. Lavori interinali, figure, come si dice, lavori atipici, lavoro su chiamata, ci sono ben 41 figure contrattuali che sono state introdotte, a cominciare dal pacchetto Treu, quindi governo di centro-sinistra 97. Allora, uno degli aspetti su cui si insiste sempre molto è che è vero, è aumentato il cosiddetto lavoro precario, dove per precario si intende appunto quello che non è a tempo indeterminato. Ed è vero, questa è una tendenza generale. Siamo su questi 24 milioni, pensate, siamo circa 3 milioni di lavoratori sono a tempo determinato, 2 milioni e 8 sono a tempo parziale, per non parlare poi dei lavoratori irregolari, cioè di quelli che non hanno contratto, che comunque sono registrati dalle statistiche sul lavoro, perché le statistiche sul lavoro è un questionario fatto alle persone dove viene registrato uno risulta occupato. Tra l'altro l'Istat usa questa definizione che è in linea con Eurostat, che sei occupato se hai lavorato almeno un'ora di lavoro nella settimana precedente all'intervista. Un'ora. Ora, ci sono contratti a tempo indeterminato dove l'impresa prende un lavoratore e dice: io ti pago, cioè tu sei un mio dipendente a tutti gli effetti, ma ti pago per il lavoro che fai, e magari è un'ora alla settimana oppure un'ora al mese. Ci sono anche occupazioni di questo tipo. E perché le imprese preferiscono adesso utilizzare il lavoro a tempo indeterminato? Perché il governo ha dato una serie di incentivi. Queste variazioni marginali sono sempre molto legate agli incentivi di politica che i governi fanno per aumentare. E poi il dato vero, allora, sono sì aumentati quindi gli occupati a tempo indeterminato negli ultimi mesi, diciamo, negli ultimi due anni, ecco, ma ci sono detto anche quelli. E poi, se li guardiamo per classi di età, questa è la cosa più drammatica, che sono aumentati e continuano ad aumentare soprattutto quelli sopra i 50 anni. Allora, una forza lavoro dove aumentano quelli sopra i 50 anni non è un buon indicatore, considerando che la fascia intermedia, 35-50, è quella in calo, ma soprattutto in grande calo è la fascia giovanile. E quindi, si può dire, certo, l'occupazione è aumentata, ma... non c'è da stare allegri, perché l'occupazione degli over 50 vuol dire che sono persone che si ritrovano, infatti sono donne che si ritrovano, perché questo è uno dei grandi, lo sapete, insomma, uno dei grandi vincoli all'occupazione femminile, il vincolo familiare o comunque il vincolo legato alle condizioni di reddito, per cui in una coppia dove ci sono dei figli si dice sempre alla fine si sceglie se alla fine è l'uomo che decide, la coppia decide anche in sintonia di far lavorare l'uomo, perché l'uomo a parità di condizioni ha un salario solitamente maggiore, lo stesso lavoro. E questo è uno dei problemi dell'Italia. Insomma, l'Italia poi ha comunque un tasso di occupazione femminile molto più basso degli altri paesi europei. Noi siamo adesso sopra il 50%, ma altri paesi sono già ampiamente sopra il 60, se non al 70, gli altri paesi europei. L'Italia ha un tasso di occupazione anche maschile più basso degli altri paesi europei, quindi da noi si lavora meno, e si lavora meno non perché non si ha voglia di lavorare, ma perché c'è un mismatch, un non incontro tra domanda e offerta di lavoro, che in Italia è drammatico. Quindi questa narrazione della situazione che va bene, dell'Italia che ce la fa, non ce la sta facendo tanto dal punto di vista macroeconomico, perché bisogna dire, e di questo parla il libro, negli ultimi 30 anni il divario con le altre economie europee è salito, è aumentato, e non lo stiamo recuperando. Stiamo galleggiando in questi ultimi, dopo la pandemia stiamo galleggiando. In un certo senso forse abbiamo fermato il calo, ma già a partire dal 2021 e stiamo galleggiando. Quindi il divario non si è ridotto, non si è, e quindi non stiamo migliorando. Il reddito pro capite non ha ancora raggiunto in termini reali il valore che aveva nel 2007. Cioè prima della crisi, la crisi globale che ci fu nel 2008, il valore massimo è stato nel 2007. Noi ancora non siamo arrivati a quel livello. Mentre tutti gli altri paesi europei, o buona parte, sicuramente le principali economie grandi come la nostra, l'hanno già superato da tempo, e quindi noi siamo ancora lì. L'occupazione non va tanto bene, perché appunto i dati che ho detto confermano che la situazione occupazionale non è... perché poi se ci entriamo dentro, questi dati sono abbastanza drammatici. non è poi qui vabbè, bisogna parlare di ci sono tanti aspetti, i salari, i redditi, i salari sono ancora, ora questo è stato nel passato un elemento di forza dell'economia italiana, che il costo del lavoro per le imprese era tra i più bassi in Europa, e questo è stato una delle leve del nostro sviluppo negli anni 50 e 60, anche 70, però poi è aumentato il nostro livello di reddito, ma questo differenziale di costo del lavoro è rimasto. E noi siamo ancora in Europa oggi, dopo 50 anni, dopo il miracolo economico, siamo ancora il paese dove i livelli di salario sono tra i più bassi. Certo, dipende molto dai settori, dalle occupazioni, dalle qualifiche, che si riflette, questo calo dei salari si riflette sul livello del reddito, naturalmente, perché il livello del reddito è aumentato per alcune fasce, soprattutto quelle medio-alte. C'è un discorso di classe anche, di collocazione sociale e occupazionale, è aumentato per le fasce alte, molto qualificate, che però occupano una parte ristretta dell'occupazione, mentre è rimasto stagnante, se non è diminuito, per le fasce basse. Perché? Perché i salari sono appunto fermi o sono addirittura calati. E soprattutto le donne hanno livelli salariali più bassi a parità degli uomini. E soprattutto le donne, per esempio, sono quelle che hanno un'occupazione a tempo parziale, un contratto a tempo parziale, involontario, come lo chiamano gli statistici, cioè non è una scelta fatta dalla persona, ma è una proposta del datore di lavoro, dice: io ti assumo se tu lavori a tempo parziale, bene. E quindi questa narrazione, questa idea che l'Italia è un paese che ce la fa, non regge. Poi nel libro, in realtà, io ho guardato appunto alle tendenze di più lungo periodo degli ultimi 30 anni per mettere in evidenza che questi problemi che noi abbiamo sono problemi seri, profondi, che hanno radici profonde, che vanno indietro nel tempo e che però mostrano appunto che cioè la corsa dell'Italia, l'Italia era un paese agricolo industriale dopo la guerra, abbiamo avuto il boom economico, abbiamo avuto il miracolo, come è stato chiamato, in cui effettivamente è aumentata l'occupazione, sono aumentati i redditi, è migliorato di molto il tenore di vita, ma questa corsa, che ha avuto un primo stop con la crisi degli anni 70, è ripresa fino al 92, anno della grande crisi istituzionale, politica, economica, cioè quell'anno fu veramente un anno terribile, dopodiché è ripresa, ma insomma a un passo molto più lento, fino al 2007. Dopo 2007 c'è stato. E da qui il titolo, gli editori non vogliono mai il punto interrogativo nei titoli. Per cui ci labbiera una provocazione, chiaramente. Ci poteva anche stare. In realtà molti elementi fanno dire che siamo al capolinea. Allora, in questo tuo volume c'è anche un'analisi delle classi sociali, tu ti sei anche occupato di questo tema e recentemente anche altri autori, mi viene in mente il libro di Perulli e Vettoretto sulla neoplebe, su queste diciamo, branche della popolazione che ovviamente oggi arrancano, fanno parte chiaramente di una dinamica di diversità, di squilibrio anche all'interno del nostro sistema paese, che è anche una questione nord-sud, come tu metti fortemente in luce in questo volume. Le discrepanze che ci sono fra i nostri sistemi produttivi sono evidenti. L'Italia è un paese principe da questo punto di vista, cioè nessun altro paese ha un divario territoriale di questa natura. Questo è un male storico, in qualche modo abbiamo cercato di mettere qualche rimedio con la Cassa del Mezzogiorno, con altre logiche di questo tipo, però attualmente sia le classi sociali sia chiaramente questa problematica territoriale la fanno un po' da padrone. Vuoi darci un piccolo approfondimento su questo? Sì, voglio anche aggiungere alla tua alla domanda che molte delle problematiche italiane, questa è una cosa che secondo me non viene mai fuori abbastanza nelle riflessioni, sono problemi nostri, è vero, ma sono problemi nostri in relazione anche agli altri paesi, cioè non è semplicemente che noi abbiamo dei ritardi. Questi ritardi si sono accumulati, si sono accentuati nel corso del tempo. Il divario territoriale. Allora, noi, il divario territoriale è un divario storico. Vabbè, adesso si potrebbe parlarne a lungo. Io ci ho scritto anche un libro con Mauro Legati sullo sviluppo italiano. È un divario che va indietro nel tempo, perché è stato dovuto anche all'impostazione che è stata data allo sviluppo italiano. Lo sviluppo italiano che, certo, nel periodo in cui le economie andavano industrializzandosi, per industrializzarsi c'era un vincolo fortissimo che era quello delle materie prime. L'industrializzazione non poteva che avvenire nel nord-ovest, dove noi non avevamo il carbone, non avevamo le miniere di ferro e per fare l'acciaio, però avevamo l'energia elettrica. Di fatto il nostro decollo industriale è avvenuto nel periodo in cui noi potevamo produrre energia elettrica, e questo è stato possibile dalla fine dell'Ottocento con tutti i fiumi e i torrenti che abbiamo sulle Alpi, quindi nel nord-ovest, tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Però questa impostazione è rimasta, per cui questa industrializzazione, che poi ha avuto un sostanziale sviluppo con la Prima Guerra Mondiale, la Fiat diventa la Fiat grazie alla Prima Guerra Mondiale, diventa la più grossa industria italiana di automezzi. Questa industrializzazione vede una fase di stagnazione o comunque durante l'interno fascista, sostanzialmente la situazione viene quasi congelata, non c'è estensione, non c'è. C'è comunque una industria finanziata dallo Stato. Dopodiché, dopo la seconda guerra, fu fatta una decisione che venne accettata da tutti. Invece di cogliere l'occasione di mettere in discussione, di far partire lo sviluppo su basi nuove, visto che c'era stata la guerra, si poteva benissimo fare, naturalmente vinse la fretta. No, dobbiamo ricostruire, dobbiamo ripartire, con quindi l'avallo di tutti i partiti, anche se era un governo di unità nazionale. Questa fu la scelta che fu fatta, quindi di ripartire da quella base industriale che era già preesistente, e su quella è cominciato il grande sviluppo italiano, che ha visto questo grande esodo dalle regioni, dal Veneto, no, da tutta la dorsale adriatica, mezzogiorno verso il nord-ovest, di manodopera verso le regioni che andavano industrializzandosi su base estensiva, cioè quindi la grande industria degli anni 40, 50 e 60. E quindi i divari territoriali, mentre il meridione poteva avere una grande agricoltura, poteva davvero, anche perché nel passato era stata il meridione era stato il bacino cerealicolo dell'Italia fino alla prima guerra mondiale, la Puglia e buona parte del meridione esportavano non solo cereali ma anche agrumi, o non solo al resto d'Italia ma anche in Europa. No, si è ferito con un'agricoltura che era molto arretrata, piccola impresa contadina di sopravvivenza, una riforma fondiaria che non intaccò fondamentalmente il sistema della proprietà, anche perché la Democrazia Cristiana preferiva... La politica e la società sono sempre state molto importanti nell'evoluzione dell'economia italiana. Il blocco sociale democristiano sostanzialmente preferì un'alleanza con i ceti agrari della borghesia proprietaria nel sud e la piccola azienda contadina nel nord-est per consolidare il suo blocco sociale. La cosa non fu peraltro veramente osteggiata dall'opposizione comunista e socialista, anche perché i comunisti e i socialisti pensavano che bisognava rafforzare la classe operaia, quindi quella industriale, che sarebbe stata il nervo della opposizione al governo democristiano, e quindi fu sostanzialmente il meridione, l'agricoltura meridionale fu lasciata a sé, e questo esodo venne sostanzialmente favorito, accettato se non favorito, e questo è stato alla base di questo divario che ha continuato ad accentuarsi. Poi c'è stata certo l'esperienza della cassa con quest'idea che anche il sud andava industrializzato, ma è un'idea, cioè è un'industrializzazione, come dire, che veniva da... Non si può industrializzare solo perché il governo decide di farlo, c'è tutto un insieme di circostanze che bisogna poi favorire, le infrastrutture, l'imprenditoria, i mercati, insomma, sono tutta una serie di fattori. E il sud è rimasto indietro. Sì, via via questo divario però è cresciuto, e oggi cresciuto. Chiaramente abbiamo un meridione d'Italia completamente abbandonato, e questo si ripercuote anche in termini dell'occupazione femminile, che in meridione è scarsissima, e con un continuo esodo, chiaramente non è solo una fuga di cervelli, ma anche di persone non altamente qualificate, si spostano. E poi l'altro tema, secondo me, fondamentale, che è appunto la questione dei redditi e della mancata redistribuzione. Tu dicevi giustamente i top manager e le classi alte hanno avuto degli aumenti di reddito in questo periodo storico, tuttavia abbiamo un indice Gini sempre più sviluppato e un sistema che tende a rendere questo paese uno dei paesi più diseguali nella, diciamo, cartina di tornasole della tua analisi a livello internazionale, no? Questo è un grosso tema. Sì, le diseguaglianze di reddito sono tra le più alte tra i paesi dell'Unione Europea nella distribuzione del reddito, soprattutto. Allora, bisogna vedere quali indicatori si usano. I redditi di mercato, cioè quelli dichiarati, l'indice di Gini supera il 50%, quindi è molto alto. Naturalmente quello che è importante per le famiglie è il reddito disponibile, che è quello che, insomma, tutti noi alla fine dichiariamo quando andiamo a fare il 7:30, per cui ci sono le sussidi di vario tipo, gli assegni familiari, insomma, quello è il reddito disponibile. Sul reddito disponibile bisogna dire, mentre per tutti gli anni, dagli anni 50 fino agli anni 70, la diseguaglianza nella distribuzione del reddito è andata diminuendo. E l'Italia era in buona compagnia, perché queste erano le politiche. C'era una alta tassazione dei redditi alti, soprattutto i redditi da capitale, e una più bassa tassazione progressiva dei redditi da lavoro. La tassazione progressiva. Pensate che negli anni 50 l'aliquota massima in Italia, negli Stati Uniti era dell'83%, l'aliquota massima, e non era un governo comunista. In Italia era comunque superiore al 70%. Negli anni 50 c'è un governo monocolore democristiano. Perché? Perché vigeva il principio accettato. C'erano due principi, che l'impresa ha una funzione sociale e che era giusto tassare i redditi più alti piuttosto che non i redditi più bassi. Era un principio di equità fiscale che era accettato da tutti, da destra come da sinistra. Questo principio piano piano è stato, poi soprattutto dopo gli anni Ottanta, con la rivincita neoliberista, no, e basta, e i redditi alti hanno cominciato, oggi l'aliquota massima è al 43%, mi sembra, e i redditi da capitale addirittura sono la tassazione, i capital gain al 25%, cioè i redditi da capitale sono favoritissimi. E questo naturalmente ha contribuito, quindi le politiche fiscali hanno contribuito a fare di nuovo aumentare, in linea con gli altri paesi europei, aumentare la diseguaglianza nella distribuzione. E poi a questo si aggiunge il fatto che i redditi, i salari e gli stipendi bassi sono cresciuti meno di quelli alti. Quindi sono due elementi che vanno tutti e due. Quindi oggi abbiamo una distribuzione squilibratissima, molto diseguale. Qualcosa come il 40% delle persone, non solo degli occupati, delle persone, ha un reddito inferiore ai 15.000 euro annui. 15.000 euro annui, lordi. Ora, pensate cosa vuol dire avere un reddito inferiore, sono poco più di 1.000 euro al mese, cioè lordi, e il 40% della popolazione italiana ha questi livelli di reddito. E in questo l'Italia, appunto, perché? Perché i salari sono più bassi, perché noi abbiamo un indice di diseguaglianza più alto, quindi sono entrambi elementi che contribuiscono a questa forbice. La cosa interessante, secondo me, forse anche per la nostra platea, è legare il fatto di avere questi bassi salari alla produttività del nostro sistema paese. Cioè, il vero male, uno dei veri mali, perché poi tu ne individui parecchi nel tuo lavoro, è sicuramente il fatto che il nostro paese è incapace di avere una produttività del lavoro in grado di garantire un miglioramento salariale. Questo, anche questo è un problema storico, tu ne fai una buona analisi. La produttività, sì, gli economisti ne parlano molto. La produttività banalmente è quanto per ogni lavoratore, quanto il prodotto totale diviso il numero dei lavoratori, no? Quindi quanto produce, quanto rende un lavoratore. E la produttività naturalmente dipende da molti, cioè sono tanti fattori, quanto è, dipende dalla tecnologia, perché poi se li guardiamo questi indicatori a livello settoriale, dipende molto. Allora, ci sono i settori più produttivi, dove la produttività è più alta, che quindi è il valore aggiunto, che alla fine è la variabile determinante diviso il numero di occupati, di addetti. Mentre fino agli anni 70 la produttività italiana era alta mediamente, ed era alta perché appunto per quello che dicevo prima, perché i salari, gli stipendi italiani erano più bassi, quindi valore aggiunto su numero di lavoratori, valore aggiunto tiene conto dei costi, no? Quindi è chiaro che essendo la componente di costo più bassa, questo incideva positivamente. E la valutazione della moneta, che è un altro tema. Sì, ci ha favorito. No, però momento. Volevo adesso venire all'oggi, cioè negli ultimi, a partire appunto dal 92, la produttività italiana ha smesso sostanzialmente di crescere. Non è più cresciuta per un fatto tecnologico, prima di tutto. Quindi alla fine da cosa dipende? Da quanto investono le imprese e da cosa dipende da quanto investono le imprese? Dipende dalla redditività. Allora, noi sappiamo che il sistema produttivo italiano vede la prevalenza di piccola e media impresa, ma non è vero che la nostra piccola e media impresa siano meno produttive di quelle di altri paesi. Quello che manca è soprattutto l'investimento in innovazione. Cioè, alla fine, per essere competitivi, bisogna che un'impresa destini parte dei suoi profitti a migliorare le tecniche, a migliorare l'organizzazione, il management. Insomma, produttività comprende tutti questi aspetti, non è semplicemente una macchina, un computer più veloce, non è solo l'insieme naturalmente degli aspetti. Vale sempre il vecchio mantra, famiglia ricca, impresa povera, giusto? Sì, cioè, allora qui bisogna dire, l'Italia è una buona colpa, una parte della colpa ce l'ha il pubblico, nel senso che il governo, se noi andiamo a guardare la spesa in ricerca, istruzione, insomma, quindi anche l'istruzione comprende tutto il sistema dell'istruzione, ma se guardiamo solo la ricerca, che è poi la ricerca di base che soprattutto si riverbera sul sistema produttivo, noi siamo tra i paesi che spendono di meno e quindi questa è la colpa, diciamo, delle politiche, ma da sempre tutti i governi. Tanto i governi dei professori quanto gli altri, cioè non è che c'erano i professori come primi ministri questa spesa sia stata più alta, ma anche le imprese, l'imprenditoria italiana ha una grande responsabilità, perché sono loro a lamentarsi, ma sono loro i principali responsabili del fatto che non c'è stato investimento in ricerca e sviluppo da parte delle imprese. Ma perché? Perché gli imprenditori italiani, da quando, sostanzialmente da quando è cominciata la globalizzazione e la finanziarizzazione dell'economia, hanno guardato al portafoglio, hanno trovato più conveniente investire in finanza che non in ricerca. Perché è chiaro che se tu vuoi che la tua impresa migliori devi investire in ricerca, non è un investimento che rende subito, è un investimento che rende, ma tanto più fai ricerca e sviluppo R&D, no? Tanto più poi noi non abbiamo più, mentre fino agli anni 2000 avevamo in queste graduatorie delle sia le graduatorie delle più grandi imprese mondiali, ce n'erano delle italiane, ed erano tra l'altro imprese pubbliche, ma c'erano anche delle private, sia i grandi capitalisti. Noi non abbiamo niente di tutto questo. Quelle sono graduatorie, possono anche lasciare il tempo che trovano, però noi non abbiamo più investito in questi sono indicatori, la nostra produttività è ferma. Allora gli imprenditori dicono: se la produttività è ferma, io come faccio ad aumentare i salari? Sì, però se guardiamo poi all'alto dato, i profitti sono rimasti alti. Cioè, se voi andavate a guardare, andate a guardare cos'erano i profitti negli anni 60, gli imprenditori si sognavano di avere i tassi di profitto che ci sono stati invece dagli anni 90 in avanti. Oggi un'impresa che ha un tasso di profitto meno del 40% è in crisi. Negli anni 50, 60, se arrivava al 20 erano contentissimi. Ma perché? Perché loro investivano tantissimo cioè, l'industria italiana era un'industria che cambiava. Noi abbiamo avuto delle eccellenze, come si dice, nella chimica, in tanti settori, nel meccanico, nell'automobile, insomma. E quindi c'è una grande responsabilità della classe imprenditoriale, dei governi, delle politiche, per cui la ragione per la quale la produttività è ferma. Da aggiungere, credo, a questo aspetto anche il fatto che abbiamo un sistema borsistico completamente asfittico. L'Italia non attira capitali e storicamente anche il nostro capitalismo familiare fa fatica a quotarsi, non ama la quotazione, cerca di evitarla, anche perché questo poi, come dire, è una risposta verso gli azionisti che pare che al nostro capitalismo non piaccia particolarmente. Ma sì, questo è il rovescio della medaglia. Se le imprese sono piccole o medio piccole, anche perché il capitalismo è familiare, non vogliono, andrebbe bene, cioè non è che l'essere familiare di per sé è appunto una diversa logica. Un tempo la logica era quella di reinvestire nell'impresa, oggi lo è molto meno. E certo, il mercato è globalizzato, certo c'è tutto il tema delle catene di fornitura, insomma ci sono, è un'economia diversa anche per le piccole imprese, per le imprese familiari. Pensiamo a Benetton, ma insomma ci sono tante di imprese familiari, hanno diversificato, sono andati in settori dove c'era una, dove si guadagnava meglio, perché guadagnarci con il tessile e l'abbigliamento è dura. E infatti della crisi che li ha coinvolti recentemente. Quindi è un capitalismo che si è adagiato e l'Italia, il paese, ne ha pagato il prezzo. Sì, soprattutto non ha più grandi player e quindi ha questi medi player come la Barilla, Ferrero, che per carità sono chiaramente ottime imprese, però non riusciamo, secondo me, in un panorama internazionale a brillare, appunto perché oggi vince un capitalismo, se vogliamo, un po' anglosassone, mi verrebbe da dire, no? Che ha più possibilità di recuperare i capitali, che chiaramente vede nella multinazionale quel soggetto che poi alla fine esprime il meglio di ciò che è fare impresa oggi, suppongo. Sì, c'è da dire anche che l'impresa pubblica, che nella logica neoliberista è stata smantellata, certo. O comunque... Una delle ragioni per cui c'erano delle imprese pubbliche era che lo Stato, il governo, doveva intervenire nell'economia, indirizzando proprio l'azione di queste imprese, che potevano essere strategiche, ma comunque erano importanti. C'era una finalità pubblica nella loro azione. Quando si decise, no, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, perché c'era una finalità pubblica, si voleva estendere la rete elettrica a tutto il paese. Oggi ci sono ancora le imprese pubbliche, ma non hanno più una finalità pubblica. Se noi pensiamo all'ENI, ci sono queste grosse imprese dove il capitale è in parte statale, ma qual è la finalità pubblica dell'ENI? E quindi, ma in tanti settori, queste privatizzazioni non hanno prodotto, cioè si è smantellato con l'idea che lo Stato non era efficiente, il che era tutto da dimostrare, perché certamente. Noi abbiamo avuto imprese pubbliche, come dicevo prima, che sono state in realtà delle eccellenze. Ma quindi si è privatizzato con l'idea che lo Stato non è efficiente, ma però il mercato non sostituisce la logica dell'intervento pubblico, che invece è una logica che non guarda solo al bilancio, ma deve guardare anche ai criteri di equità, ai bisogni. L'avere privatizzato i servizi è stato un gravissimo problema, un gravissimo danno fatto all'azione pubblica dello Stato, perché se noi pensiamo alla sanità, non può semplicemente rispondere a dei criteri di mercato, perché ci vogliono dei servizi che hanno certe caratteristiche che devono essere il più possibile distribuiti sul territorio. Cioè la logica di mercato, e invece è prevalsa questa logica. Sì, sì, resta sempre questa mantra della privatizzazione, che poi tu individui giustamente nel Green Alternative di Thatcheriana memoria, su cui però tu hai delle cose da dire, cioè delle alternative ci sono e tu le individui, e quindi è chiaro, la politica ha perso, nel senso che ha manifestato un'incapacità anche di avere una visione, non dico di lungo, ma neanche di medio periodo, per cui oggi, come dire, siamo sempre sul chi va là, favorendo ovviamente i grandi interessi, che non sono poi gli interessi della cittadinanza. Però la storia ci insegna che schiacciare le classi medie verso il basso non ha mai portato a niente di buono. E quindi a fronte del nostro, così, nostre problematiche, che sono problematiche demografiche, problematiche di produttività, di innovazione, eccetera, cosa possiamo fare? Potremmo fare tante cose. È vero che negli ultimi mesi, se non anni, insomma, in quest'ultima fase c'è stata una certa accelerazione di alcune dinamiche internazionali che si riflettono naturalmente molto anche sulla performance, sulla situazione dell'economia italiana e della società italiana. E certamente queste sono un vincolo, perché ci sono tre aspetti almeno: la crisi climatica, la crisi, diciamo così, geopolitica, e però io ci metterei anche il terzo aspetto, che non viene considerato abbastanza, che è la crisi istituzionale. Io, questo secondo me è un tema importante, legato agli altri due. Cioè, per molto tempo, per molti anni, il capitalismo liberista, il libero mercato, la democrazia capitalistica è andato di pari passo con la democrazia liberale. Però la democrazia liberale progrediva, tanto più riusciva a rispondere ai bisogni della maggioranza della popolazione, se non della totalità, ma almeno della grande maggioranza. A partire da un certo momento, in particolare a partire dal 2008, questo è stato sempre meno vero. C'è una parte consistente della popolazione che ha visto sempre meno, sempre più peggiorare le proprie condizioni di vita, quindi reddito, servizi, con queste privatizzazioni, perdendo fiducia quindi nel sistema politico istituzionale democratico, nella democrazia. Cioè, questo si è riflesso nell'aumento del calo dell'affluenza elettorale, nella sfiducia quindi nei partiti, soprattutto nei partiti della sinistra, ma non solo, insomma, e questo è un aspetto. Adesso a questo si sono aggiunte la crisi climatica, che è diventata sempre più evidente con i suoi riflessi, no? Noi percepiamo, ma no, l'aumento delle temperature, ma che si riflettono in questo aumento degli eventi, come li chiamano, gli eventi climatici, straordinari, insomma, alluvioni, piogge, siccità, però che stanno avendo degli effetti anche notevoli sulla non solo sulle condizioni di vita, ma proprio sull'assetto idrogeologico, quindi si riflettono alla fine sulle condizioni di vita della popolazione. E poi la questione geopolitica, che è una manifestazione, io credo, al di là di tutto. Ci sono fattori specifici, come in Palestina, come in Ucraina, ma sono il riflesso però anche del fatto che stanno cambiando gli equilibri internazionali. Ovviamente. Per ragioni economiche. Cioè, da 15 anni a questa parte i paesi emergenti sono emersi, sono definitivamente emersi, e sono oggi, cioè i paesi, per dire l'indicatore del PIL, no? I BRICS, i 5 BRICS, il PIL dei 5 BRICS ha già superato il PIL dei G7, che ancora viene, quando fanno la riunione si dice potenti del mondo, non sono più i più potenti del mondo. Il PIL dei BRIC ha superato il PIL dei G7. E questo si è manifestato e si manifesta con una tensione crescente. Adesso, vabbè, al di là di Trump e delle sue pazzie, si manifesta con una tensione crescente. Ci sarebbero tante cose che si potrebbero fare. Innanzitutto, a livello europeo, dell'Unione Europea, dove però invece l'Italia e in particolare quei partiti che dovevano avere più a cuore quel parte della popolazione, i ceti medio-bassi, per cui le condizioni andavano peggiorando, avrebbero dovuto fare delle politiche diverse, dire delle cose diverse. E in Europa, in Italia, si potrebbero fare delle politiche diverse, anche se è difficile pensare che un governo come quello che abbiamo le possa perseguire, anche perché questo governo è in fondo il risultato, è uno dei risultati di quella crisi della democrazia, che alla fine a votare ci vanno comunque quella parte del corpo elettorale che si sente più garantito e protetto, più quell'altra parte del corpo elettorale, dei ceti medio-bassi, che vabbè, sarà una componente minore, ma è comunque una componente che c'è, di quelli che si sentono minacciati. Certo, il grande risentimento. Dalle condizioni esistenti, e che vedono nella risposta che gli danno le destre una possibile soluzione, una possibile... Ma questa che può essere quindi la maggiore richiesta di sicurezza, come viene detto, di protezione. Certo, individuare nel nemico chi sta peggio, chiaramente, e di conseguenza avere l'opportunità di aiutarlo e costruire anche delle campagne elettorali legate a questo aspetto. No? Sì. Quindi questo è un libro che... certo, io riflettevo prima anche con il direttore che è qui presente. L'economia sta cambiando molto, molto in fretta, voglio dire. La situazione economico-sociale sta cambiando molto in fretta. Però questo è un libro che penso che interessi chi vuole guardare alle tendenze che si stanno manifestando oggi di più lungo periodo, che sono quelle, insomma, non è che... perché appunto abbiamo parlato, cioè la crisi demografica, il calo della popolazione, gli squilibri, la distribuzione del reddito, lavoro, produttività e salari, che sono temi di più ampio respiro, di più lungo periodo. Sì, questo è un tema, quello del declino, che noi cavalchiamo da parecchio tempo, non ricordo anche a metà degli anni 90 già uscivano questi libri, il declino italiano, non so se... Cecco, Visco, scrivevano queste cose, sì, qui, sì. No? Che è un po' un altro modo di argentinizzarci, siamo sempre vicini all'Argentina, sempre meno, no, nel senso che appunto è una lunga decadenza dove al fondo poi chi ha un po' di potere dal punto di vista del reddito, cioè i pensionati, le classi appunto medie di una volta, oggi favoriscono chiaramente il mantenimento delle classi più giovani, che invece fanno parte di un contesto di neoplebe con grandissima difficoltà nel riuscire a conseguire un lavoro, e quindi abbiamo ancora una grande ricaduta di ricchezza, nel senso che il nostro risparmio privato è talmente alto che forse vuol dire questa decadenza nel nostro bel paese ha questa prospettiva di, come dire, di scendere piano piano, no? Ma no, anche sul risparmio non illudiamoci, negli ultimi anni, ultimissimi, lo stiamo erodendo, lo stiamo erodendo, perché se noi guardiamo il reddito disponibile è diminuito, ma sono diminuiti anche i consumi da reddito, che si va a attingere, certo, al risparmio. È chiaramente un circolo vizioso che ci porta appunto questo, mi sembra un po' a Venezia, si chiama Dalmose, piano piano si riempie d'acqua e avremo così il privilegio di vedere questa città subacquea con queste belle caratteristiche. C'è da lavorare molto, moltissimo, credo, no? In prospettiva. Per alcuni c'è da lavorare e non lo stanno facendo quelli che dovrebbero lavorare. Va bene, ci sono delle domande pubblico? Una cosa molto puntuale, prima. Le privatizzazioni sono state necessarie perché lo Stato non era efficiente, non riusciva a produrre quel servizio, ma era lo Stato stesso che ha deciso le privatizzazioni. In altre parole, stavano parlando di loro stessi, cioè di essere degli imbecilli, più o meno, degli essere degli incapaci, non erano capaci di erogare un servizio e quindi hanno detto vabbè, vendiamola. No, non è andata così. Perché poi oggi abbiamo la stessa cosa, nel senso abbiamo una classe politica che non sembra avere, almeno a me non sembra avere un'idea di che cosa deve fare, sì. Sta lasciando andare oggi le cose, sì, così. In realtà bisognerebbe dire due parole sul ruolo nefasto degli economisti, che a partire dagli anni 70, no, questi... Nel 74 viene dato il premio Nobel per l'economia, che viene introdotto quell'anno a von Hayek, nel 76 a Friedman, Milton Friedman, e questi sostenevano l'assoluta supremazia del mercato sullo Stato, dicendo è il mercato che indica qual è la cosa più efficiente da fare. Se non c'è una domanda, allora non bisogna intervenire, e lo Stato, siccome è guidato non da principi di efficienza ma da principi altri, come può essere quello dell'equità o della giustizia, lo Stato sbaglia perché finisce per fare delle cose che non sono economiche, che non rendono, perché lo fa per un altro principio. Allora questo può valere per un'impresa di pomodori, ma non per i servizi, per dire, essenziali, perché deve valere per la sanità. E quindi erano loro che dicevano lo Stato. E poi l'industria pubblica è stata molto importante nello sviluppo italiano, è stata molto efficiente anche, a un tempo in cui non era vero che il manager di un'impresa pubblica rispondeva al partito che lo aveva nominato, assolutamente no, cioè faceva si curava della competitività della sua impresa, cioè c'erano dei manager pubblici bravissimi, e infatti abbiamo avuto un'industria pubblica che è stata utilissima. Poi certo il sistema è degenerato con le partecipazioni statali, c'era il clientelismo, allora lì sì si poteva dire che c'è stata inefficienza, ma il principio comunque è quello che un'impresa, se opera nel mercato, deve rispondere a criteri di efficienza e quindi di profittabilità. Ma se è un'impresa pubblica che ha altri obiettivi, facciamo un altro esempio, quello delle ferrovie. A un certo punto si è deciso di tagliare tutte le piccole ferrovie su per le valli, perché si diceva sono inefficienti. Ma noi oggi sappiamo che sarebbe molto meglio avere delle ferrovie che vanno su per le valli, perché inquinano molto di meno. E invece abbiamo dismesso le ferrovie, perché non erano efficienti, profittevoli. Però adesso c'è il trasporto privato, autobus e automobili. È meglio avere il trasporto privato che va su per le valli? Non lo so, secondo me dal punto di vista della collettività sarebbe meglio una ferrovia privata, una ferrovia pubblica, o anche privata, una ferrovia. Cioè l'affidare al mercato servizi o attività con il solo criterio della efficienza, della profittabilità, non è necessariamente cosa giusta dal punto di vista dell'utilità pubblica. Indubbiamente noi abbiamo avuto l'IRI, come dire, abbiamo avuto l'IRI, una delle grandi macchine che abbiamo dismesso solo nel 2000, no? Quindi voglio dire, la nostra economia si è sempre beneficiato di un occhio attento da parte dello Stato, no? Quindi devo dire, parlo appunto del post seconda guerra mondiale, no? Quindi in questo senso ci siamo sempre stati favoriti, no? Poi pensiamo anche ad altri sistemi che sono stati rinazionalizzati, no? Io immagino, mi sovviene anche, no? Politiche esterne del sud del mondo, dove la privatizzazione a un certo punto negli anni 90 l'ha fatta da padrona, poi negli anni 2000 mi viene in mente Argentina con l'IPF, privatizzare l'impresa di idrocarburi e poi rinazionalizzarla, perché chiaramente questo è un servizio dello Stato per i cittadini, no? Ed è andata così, no? Quindi non è vero che l'impresa pubblica poi perde in tutto il mondo, è certo che in queste logiche di economia neoliberale alla fine appunto la fa padrona la mano invisibile, la cosiddetta mano invisibile del mercato, considerando poi anche le deficienze che il mercato produce, no? Che non è che domande e offerte si incontrino sempre in quel famoso punto di equilibrio. Abbiamo un mondo che è molto diverso, molto diversificato, che ha esigenze e risposte diverse, e l'economia dovrebbe rispondere in un certo senso anche a queste dinamiche, non necessariamente votarsi all'interesse personale, all'interesse familiare o all'interesse d'élite, come oggi vediamo, che in effetti poi va semplicemente a schiacciare verso il basso ancora le classi medie. Oggi secondo me questa situazione per il nostro paese è drammatica, con i livelli anche di povertà che vediamo. Ci sono altre domande? O vi abbiamo distrutto? Li abbiamo stesi? saziato, perché Guglielmo è saggio, è un uomo saggio, e infatti lui dice saziato. No, saggio si dice saggio. Almeno per questa radio si dice saggio. Poi... Ma lui c'ha... Una suggestione rispetto alle cose che dicevi. Forse i meccanismi che hanno, anzi direi più che forse, diciamo che è un dato storico abbastanza verificato, forse i meccanismi che hanno reso possibile di avere, che ne so, l'articolo 42, se non mi ricordo male, della Costituzione, che lega la proprietà privata a un processo di crescita sociale garantita per tutto il paese, la tassazione altissima per i redditi più alti di cui parlavi negli anni 50, la sanità pubblica così come l'abbiamo conosciuta in Italia, sono stati il prodotto semplice della lotta di classe. E il motivo per cui, diciamo, i capitalisti, o come dire, bisognerebbe interrogarsi anche sul senso dello Stato, che cos'è lo Stato, quindi che cos'è il potere politico, cosa sono le istituzioni. Il motivo per cui a un certo punto, diciamo, c'è stato questo processo di privatizzazione selvaggia che andava incontro a quello che arrivava oltreoceano col processo di globalizzazione, è che la lotta di classe è stata vinta da uno dei due attori. E questa sconfitta fa sì che noi cerchiamo forse disperatamente di trovare la terza parte, l'arbitro dell'incontro, ma questo arbitro dell'incontro in realtà è pagato da una delle due parti, E il fatto che questo arbitro sia pagato da una delle due parti crea l'abbaglio di pensare che si possa, diciamo, mettere il punto di domanda rispetto al titolo, sviluppo al capolinea oppure no. E dall'altro, magari, interpretare un certo tipo di battaglia politica senza per questo ritornare, diciamo, alla lotta di classe che aveva permesso quelle conquiste, come una battaglia tutta interna al discorso istituzionale. Ma purtroppo quel protagonismo delle masse che è venuto meno e che sono state sconfitte ha determinato in larghissima parte l'esito attuale, perché in fondo se von Hayek o Friedman hanno vinto il premio Nobel per l'economia negli anni 70 e poi, diciamo, le Thatcher e i Reagan hanno sviluppato, diciamo, quei principi, e la scuola di Chicago hanno sviluppato quei principi, è perché hanno avuto mano libera, hanno avuto campo libero, hanno vinto. Quindi forse la possibilità di rimettere un punto di domanda rispetto a questo sviluppo, se è davvero il capolinea, sta nella riappropriazione del rilancio di una nuova stagione di lotta di classe. Mi fa piacere che tu dica questo, perché io sono d'accordo. Perché è successo questo? Come è successo? Perché appunto... Vabbè, c'è anche un'etica diversa, perché la tassazione alta per i redditi alti rispondeva a un'etica diversa, appunto il governo era democristiano, c'è un'etica pubblica diversa, però c'era una lotta di classe che è maturata grazie al movimento operaio, che negli anni 60 e 70 ha insistito nel chiedere migliori condizioni di lavoro, si è arrivato allo statuto dei lavoratori, maggiori livelli di salario, una lotta che è poi diventata una lotta per i diritti, quindi sistema sanitario nazionale, tutta una serie di conquiste. E lì è cominciata la sconfitta, cioè è cominciata la rivincita della classe padronale, intanto, prima con la crisi del 75, l'inflazione, c'è cioè un insieme di fattori che costrinsero il sindacato, insomma la classe operaia, ad andare sulla difensiva, un arretramento delle posizioni delle sinistre in generale su posizioni più concilianti, finché si arriva al 92 con la cosiddetta politica dei redditi, la concertazione. Com'è stato possibile? Perché, uno, perché la sinistra o le sinistre, non solo in Italia ma in Europa, negli Stati Uniti, si convincono, e questo è un discorso che ho fatto un po' qui, ma nel mio libro sulle classi sociali l'ho ampliato, però c'è anche un po' qui in parte, si convincono che la classe operaia va sparendo, cosa che non è vera, va sparendo la classe operaia industriale, non sparisce mai del tutto. C'è tutta una classe di lavoro salariato che però viene disarticolata come classe. Grazie a questo che è potuto accadere, che il movimento operaio si disperde, perché l'introdurre tutte queste forme contrattuali, ad esempio, il subappalto, l'intermediazione hanno portato a una disarticolazione completa della classe operaia in quanto classe, perché questo è la lotta di classe, ci può essere se c'è organizzazione, movimento, se c'è massa che fa lotta insieme, e questo elemento, e quindi è stata perseguita questa strategia di disarticolare. Prima ci fu la ristrutturazione industriale, no? Dare il lavoro fuori alle imprese, il discorso degli indotti e dell'industria. E poi c'è stato il subappalto. E poi questa strategia sul lavoro ha pagato. Cioè, in questo modo è sostanzialmente sparito il movimento operaio, che non ha trovato poi più un riferimento politico, una rappresentanza politica nei partiti della sinistra. E quindi sostanzialmente l'altra parte l'ha avuta vinta, ha vinto la lotta di classe. E quindi tu dici, ricominciare, bisogna riorganizzare. Sì, bisognerebbe riorganizzare. Infatti anche quello che sta facendo il sindacato oggi, molto importante, questi referendum saranno molto importanti, ma sono un tentativo timido, secondo me, troppo timido, di riportare la lotta su un terreno di duro scontro, perché deve essere così, perché non può essere fatta... tu dici l'arbitro. L'arbitro sì, è stato, nel senso dello Stato, non c'è stato più un referente istituzionale. Il governo ha finito per essere tanto le sinistre. Canfor la chiama la ex sinistra. E secondo me ha ragione, perché alla fine, se andiamo a guardare le grandi riforme del mercato del lavoro, chi le ha fatte? Che Totreu, la Biagi, la Fornero, il Jobs Act, chi le ha fatte? Che governi erano? Quindi, magari, cioè, io personalmente sto cercando, come dire, di fare la mia parte, però sì... bisogna anche dire che sì, il ruolo degli intellettuali è comunque una situazione, un discorso che ci porterebbe lontano. Non ci sono più né i partiti che fanno riferimento a un pensiero profondo, diciamo, un pensiero, né gli intellettuali che lavorano per, che hanno un impegno politico. Ma non dico da istituzionale, da parlamentare, dico un impegno pubblico, sono pochissimi, e questo è sicuramente uno degli elementi che contribuisce alla... Oggi non esiste dibattito, cioè c'è la televisione. Ma sai, c'è uno svuotamento anche delle coscienze, tutto anche legato all'impoverimento, parlo da tutti i punti di vista, non solo economico. Ma questo è assurdo, cioè è paradossale, cioè noi oggi siamo paesi, negli anni 50 avevamo l'analfabetismo. Però avevamo una classe dirigente che aveva una visione, cosa che oggi ci manca completamente, quindi... Cioè oggi si è alzato il livello di istruzione medio, ma abbiamo un paese di... Io credo che la coscienza critica vada indebolendosi anche per questo... Per via di questa frammentazione, io sono assolutamente d'accordo con il discorso che hai fatto, no? Su chi ha vinto la lotta di classe, come l'ha vinta. Per cui è chiaro che, come dire, quando il proletariato arretra, la borghesia schiaccia e avanza. Per me non ci sono grandi alternative, no? Per cui bisogna costruire una massa critica. È complicatissimo, perché pensiamo solo al tema dello smart working, no? Alla parcellizzazione, alle partite IVA. Oggi una persona che lavora da casa, che tipo di relazione ha sul posto di lavoro? Ovviamente è anche legato al fatto che non viene promosso, che, come dire, e quindi il suo salario viene sempre, come dire, mantenuto lì, in una condizione in cui appunto si fa fatica a fare comunità. E se pensiamo anche alle relazioni docentesche fra datore di lavoro e occupato oggi, vediamo che, dire, come se avessimo bypassato gli anni, la storia del sindacato completamente, no? Siamo tornati indietro, come se questa non ci fosse mai stata. Sì, ed è allarmante, devo dire, veramente allarmante. Bene, grazie. Vi ringrazio. A tutti.